no, fermati, signora. Ove sepolto giace l'amato nome, Lillo, lascia ch'io vada, e fuor dell'urna trarò cenere amato. È grande infamia, lasciali estinti e chiusi avelli. Ma vive chi l'uccise, la vendetta porterò vanamente, ove non entra rimembranza d'offesa. Vindice perdo in pugno e contro l'empio, ditemi io volo rinnovar lo scempio. Contro il fratello? No. Perché? Quel sangue che i versi era svelato, il primo forse sarà, che uscito da fratelne bene, corse dal patrio nido incorporar la rene.